Suo pallido visino, sotto il bianco cappellino, al mio primo invito quasi si oscurò, ma poi non disse di no. Primavera verso i campi ci portò, e fiori e fragoline cogliemmo, mentre un sogno d'amor già sbocciava nel cuore. Per le mani ci tenemmo, quante cose ci dicemmo, ma ben presto il sole volse al tramontar, così dovemmo tornare. Lei aveva un mazzolin di fiore e le fragole nel cappellino, ogni fragola un bacin d'amore, ed il tempo volò. Che siamo tornati, non ci siamo più lasciati, e nei campi andiamo a ricordare ancora il primo bacio d'amore. Ma con noi però c'è un cappellino in più, che fragoline va raccogliendo, piccolino com'è, conta già fino a tre. Quando a sera ritorniamo, fra le braccia lo scambiamo, io gli canto l'avventura di quel dì e s'addormenta così. Lei aveva un mazzolin di fiore e le fragole nel cappellino, ogni fragola un bacin d'amore, ed il tempo volò. Mazzolin di fiore e le fragole nel cappellino, ogni fragola un bacin d'amore, ed il tempo volò, ed il tempo volò, ed il tempo.